pietre o qualche canna di bambù. Per vivere e rubare, per sopravvivere e ammazzare, strana legge della vita di tribù. L'odio e nelle vene scorre il gelo. Nati tra ingiustizie, tra rifiuti ed immondizie, prima ancora di acquistarla ha già perso dignità. Chiamato a stare zitto, questo è lui.